ingiusta, chiaramente ingiusta, di Chiellini, e poi quel fallo su cui è stato fischiato rigore su Sergio Ramos, rigore poi trasformato da Ronaldo. Allora, e la rigore? Abbiamo chiesto io e Pardo a Graziano Cesari la sua opinione, che poi non è esattamente la mia, ve la faccio riascoltare. Dammi la mondiola. E chi potevamo chiamare oggi, scusa? Pardo. È rigore, è a calcio di... Graziano Cesari, come va? Ciao, buongiorno ragazzi, benissimo, ciao Pierluigi, ciao Carmine. Dove sei? Facciamo adesso aspetta, dobbiamo fare la geolocalizzazione del rosicamento. Tu adesso sei a Boccadasse, secondo bravo, me... Bravo. Dove c'è il sole. Uno dei posti più belli d'Italia, del mondo, Boccadasse, lo diciamo. Diciamo del mondo, dai. Ecco, sempre perché sei megalomane, va bene. No, non che sono megalomane, è la verità. Ed è anche il motivo della perenne abbronzatura di Graziano Cesari, certo, che è un tema sul quale... Quello c'è qualche aiuto, dai. Quello ah, c'è sì? Qualche aiuto. Qualche abbonamento. Ma perché sei fissato con l'abbronzatura? Facciamo del giornalismo d'inchiesta importante, le grandi inchieste di tutti i convocati, no? Perché sei sempre stato abbronzato? Perché credo che sia un sinonimo di salute. Vedere uno bello abbronzato a me dà soddisfazione, dà felicità. Vedere uno smunto mi dà tristezza. Vabbè, allora, dovresti vedere me, Pardi, in questo momento una roba da buona teoria. No, sì. Veramente non vorrei mai vedere voi due. Sei no, squisito, vabbè. Cesari, manteniamo la distanza professionale. Allora, Graziano, rigore provocato da Chiellini c'era, l'espulsione no, siamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo, io no, per esempio, non sono d'accordo no. Sul rigore. Secondo me è una follia interpretativa quella del rigore. Andate a vedere bene l'immagine, c'è un blocco territoriale di Sergio Ramos, si può fare, molta malizia, dopodiché che lì cerca di intervenire, cerca di muoversi, e Sergio Ramos muove il tronco, muove il movimento, fa un movimento che si scoordina Chiellini e lo disequilibra. A quel punto è evidente che cosa fa Chiellini, allarga il braccio. Ma questo, ragazzi, ma dopo la parata del portiere, tant'è che il fischio del direttore di gara centrale arriva notevolmente in ritardo, secondo me proprio non voleva assolutamente darlo, imposto dall'arbitro di porta. E qui entriamo in una discussione. Volete sapere il voto dell'osservatore arbitrale a quell'arbitro lì? Sì. 8. Sapete cosa significa? 8. Sapete cosa significa 8 per un arbitro internazionale? Significa non idoneo per gare di un tipo coefficiente di difficoltà così alto. Scusa, 8, allora ci manca la scala. La scala da quanto va? La scala va dal 7, dal 6 al 10. Ah, quindi 8... vuol dire proprio che devi andare a casa, ti tirano il passaporto immediatamente. No, scusami, quindi 8 è brutto? 8 è un brutto voto. Ah. 8 è un brutto voto. 8 e mezzo vuol dire che puoi fare quei match, ma non sei sicuramente un arbitro importante. Dal 9 in su. Ah, ok, come i tuffi, per capirci. Esatto, bravo, come i tuffi. Sì, come i tuffi, gli arbitri devono essere ferrati. No, perché io 8 a scuola, quelle 3 volte che l'ho preso, me le ricordo, sto ancora facendo la ola, capito? L'aeroplanino tipo Montella o l'esultanza alla Balotelli senza guardare, senza ridere. Invece, o espulsione di Chiellini, beh, simulazione di Cristiano Ronaldo. Poi c'è chi scrive che Chiellini aveva fatto la stessa cosa con Mexes, come se due errori o due simulazioni venissero cancellate l'una dall'altra. Invece, si tratta chiaramente di due simulazioni. Due episodi diversi, due errori gravi. Due errori gravi, specialmente quello dell'inferiorità numerica. È chiaro che un provvedimento disciplinare è così importante per una squadra, diventa determinante quando devi rincorrere i risultati. Lì possiamo solamente dire: interrompe la progressione di un avversario perché allargando il braccio. Ma neanche perché il regolamento prevede un calcio di punizione diretto e poi stop. Quello che ha scritto l'arbitro tedesco, chiara occasione da rete, è stato contestatissimo dall'osservatore arbitrale, contestato da Collina, quindi immaginiamoci un pochettino, Ma esiste perché in Italia ne parliamo, no? E ogni tanto... Non dirmelo, fermati subito, non dire una stupidaggine. Stop. No, dico esiste. Stop. Esiste la possibilità che possa piovere nelle prossime ore a Boccadasse? Questo volevo chiedere. Sì, questo sì, probabilmente sì, perché c'è allerta 2. Ah, ok, va bene. Bravo. Quell'altra cosa non esiste, la sudditanza? No, che sudditanza, cosa vuoi che esista la sudditanza? Un arbitro che deve fare Real Juventus, dov'è la sudditanza? È il miedo scenico, come dicono a Madrid. C'è chi scrive che dai tempi di Di Stefano, chi arbitra lì, insomma, la pressione di quello stadio ma lo sente. Dai, su. Quella è la scelta dell'arbitro? Real Madrid o Juventus? Parliamoci chiaro. L'arbitro deve fare una scelta, no? Metti in senso subito di qualche cosa. Uh-huh. Sceglie Real Madrid o la Juventus? È assurdo. Uno vuole abitarle tutte e due. Sì, la mia domanda era più maliziosa, non per parlare ovviamente di corruzione o di malafede, ma per parlare anche magari di un'immagine del calcio italiano che, cioè magari negli anni 90 Juve Real Madrid o Inter Real Madrid o Milan Real Madrid, era una partita dove eravamo noi il potere, ovviamente inteso come carisma, come vittorie, e loro lo sia quello, Pier, cioè non credo che sia il carisma di tanto tempo fa, adesso non c'è, perché abbiamo delle squadre che sono titolatissime nel mondo, mi riferisco sicuramente a quelle della Champions, ma a quelle anche dell'Europa League, quindi il calcio italiano, che poi è vice campione d'Europa, non è certamente in crisi da questo punto di vista, i nostri dirigenti probabilmente non hanno il carisma di Artemio Franchi, certo. Artemio Franchi era unico, irripetibile, sì. La storia, la leggenda. Dopo di lui il diluvio. Dopo di lui il diluvio. Sì, avete anche quelli che si sono stati prima, Graziano. Senti, invece, voto alla Juventus. Voto alla Juventus 8. 8 che, che non è quello dell'arbitro. No, è quello della Juventus. È quello che va dallo 0 al 10. È quello che io volevo prendere a scuola e non prendevo mai. Con 9 a Conte. Sì. Io sono d'accordo, ha giocato una grandissima partita, addirittura in inferiorità numerica è riuscito a tenere il gioco, non riesce, fa molta fatica a finalizzare, a fare male davanti, sì, fa molta fatica, perché insomma, diciamo la sincera verità, adesso al di là del gol di Lorente, è un top player? Non mi porrei queste domande, se Marotta, Paratici e chi doveva comprare questo giocatore sperava che questo fosse un top player, secondo me ha cannato. Il top player è quell'altro, quello argentino, che infatti ha parlato da leader e ha detto, mi piace sempre di più Carlitos Tevez, ha detto, va bene gli errori dell'arbitro, ma guardiamo agli errori che abbiamo fatto noi. Lui si sta prendendo la leadership della Juventus sul campo. Perché è carismatico, perché è un attaccante che aiuta i compagni, perché è un attaccante che fa gol, perché è un attaccante che non molla mai. È chiaro che questo tipo di giocatore serve alla Juventus in modo determinante. Non ti dimenticare che ha degli incostanti, perché Giovinco è un incostante, Bucci è un incostante, Quagliarella è incostante, Madre che è andato via non segna neanche nel Milan. Questa era una delle caratteristiche dell'attacco della Juventus. Toby Tevez, che è un mostro, e quindi diventa per forza uno di grande personalità. Ha una grande immagine in questo momento Tevez, e se la merita per quello che abbiamo visto fin qui, perché insomma è veramente un uomo squadra. No, volevo capire, ma sulla designazione di quest'arbitro di ieri, volevo tornare un attimo indietro, cioè era comunque una designazione un po' strana, come funziona? Ci spieghi i meccanismi, nel senso che è Reali, molto strana, Reali molto Uve ti aspetti uno dei top 5 arbitri d'Europa? Bravo, ecco. Invece... secondo me è molto strana, ma lui ha fatto molto bene il turno precedente in Champions, quando ha arbitrato l'Anderlecht col Benfica. Io l'ho fatto molto bene, ho preso 9,5, quindi è una votazione massima, è chiaro. E tu come fai a sapere tutti? Ma li fai tu queste pagelle? Qua ce lo chiedo. Perché io sono una moschetta che vola in quelle stanze di Gnon ogni tanto, stai attento alle stanze di Gnon. Non riescono neanche a intercettarmi via telefono, guarda. Qua ci chiedono se ci ricordiamo i Real Inter degli anni 80, gli anni d'oro dei Real Inter, quelle robe lì, Maseda su Altobelli o la biglia contro Bergomi, Massimo Lavarese se le ricorda bene, me le ricordo anch'io, cioè, appunto questo, no? Cioè, comunque quello è uno stadio, non, tu escludi che ci possa essere il minimo condizionamento? No, io escludo il minimo condizionamento, anche perché poi, sai, è talmente facile perdere la patente da internazionale che gli arbitri non possono assolutamente essere condizionati. Li vedono in tutto il mondo, sono sotto la lente di ingrandimento, e ti posso garantire che la commissione arbitrale è molto attenta, molto molto attenta agli errori, quindi chiaro che guarda cosa è successo al povero Kassai. Voi non, sapete chi è Kassai? È un arbitro ungherese, ecco, perfetto, ha fatto la finale del mondiale Kassai, ha fatto quella bruttissima cosa nel mondiale di Sudafrica, e vedi com'è sceso proprio in gradatoria. Cioè, un arbitro internazionale, al di là dell'aspetto economico sicuramente importante, e anche una valorizzazione di immagini nel suo paese, può ambire a un posto di lavoro nel dopo arbitro, che rende anche qualche soldino, perché se all'UEFA non è che lo facciano gratis, lo faccio gratis io che faccio il mobiliista, ma neanche loro lo fanno gratis. Sì, quindi questo dà anche la misura della pressione che questo. Tu lo fai solo per essere ospite a Tiki Taka, era l'obiettivo. È vero, della solo per essere ospite a Tiki Taka, per mettere il faccione a Tiki Taka. Mettere il faccione, esatto, come diciamo in gergo. Allora, qui tu dici, aspetta, Pier, dobbiamo fermarci per la borsa. Io avevo un'ultima cosa da chiedere a Graziano Cesari, un giudizio. Bergonzi, è notizia di oggi, Bergonzi per Udinese, Roma. La Juventus con il Genoa troverà Doveri. Beh, sono molto felice, perché Doveri è un arbitro sicuramente di grande affidabilità.

Io personalmente, la squadra e quant'altro abbiamo subito in quel frangente. Grazie mister. Grazie mister. Viva grazie l'Italia, viva l'Italia. Viva l'Italia sempre. Grazie. Grazie, arrivederci. Dopo Davis Mangia e dopo Mandorlini ci fermiamo per il traffico e poi parliamo un po' di ciclismo, perché abbiamo due grandi personaggi, nostri amici un po' bizzarri, vi dico subito, Paolini e Pozzato, e invece una voce istituzionale delle telecronache televisive come Davide Cassani che presenta il prossimo Tour de France. State con noi. Tutti convocati. Allora, eccoci al ciclismo. Paolini e Pozzato, la coppia più bella del mondo, non solo sulla bicicletta ma anche e soprattutto fuori. Sarebbe divertente passare qualche giorno di festa con loro, ma temo che siano in altre faccende affaccendati, beati loro. Allora, Paolini e Pozzato parlano dopo un mondiale che per l'Italia è stato deludente, mentre la presentazione del Tour del 2014, che insomma salirà in alta quota, che sarà estremamente spettacolare, tutti ci auguriamo, così come ci auguriamo di vedere tra le Alpi le Vincenzo Nibali. Ebbene, prima Paolini e Pozzato dopo il mondiale e poi Davide Cassani sul Tour de France. Luca Paolini, ciao. Buongiorno a tutti. Queste buongiorno. Sono parole del tuo CT Paolo Bettini, nonché tuo amico, nonché tuo ex compagno di squadra, nonché l'uomo che ti deve sempre, ti avrà sempre enorme gratitudine per le volate vincenti che gli hai regalato. Ma Bettini resta a fare CT la nazionale? Ma guarda, io me lo auguro, perché alla fine, come si è visto anche quest'anno, è riuscito ad amalgamare un gruppo con soli due raduni, quindi ha fatto un miracolo, ha fatto sì che 9 corridori che non corrono mai insieme abbiano formato una squadra e abbiano corso per un unico obiettivo, quindi sì. Poi normale, ha dato atto di questo e io spero che continui, perché secondo me sì, lo spero anch'io, se ti devo dire la verità. Lo spero prima anch'io. O poi il risultato giusto lo raccoglie. Anche se, caro Luca, l'ho detto ieri, battutaccia, però è normale che a Firenze vinca Rui Costa, un portoghese che di sicuro non ha una grande squadra, però è molto bravo, è molto opportunista. Sì, è molto opportunista, poi aveva la fortuna comunque di essere da solo, quindi di valutare da solo quelle che erano le condizioni in gara, quindi forse più facile tante volte essere da soli che in 9, no? In certe occasioni, se sei sai sfruttare il lavoro degli altri. Com'è Pozzato a giocare a pallone? Posso di la verità. Posso rispondere? Posso, no, è meglio no, non rispondere. No, devi rispondere. Com'è? Ma guarda, corre pochissimo. Corre pochissimo, corre vabbè, veramente ma è un po' poco. Se non gli arriva la palla, lui può fare anche ore senza pallone. Ma fa bene, guarda, sono i miei giocatori preferiti, ti posso dire. Pippo Pozzato! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Perché io gioco di fino, non devo correre. Bravo. Non gli altri, io gioco sì. Come Virdis. Esatto. No, io speravo di salutare qualcuno di voi con la maglia iridata addosso. Invece, Pippo, come sei vestito? No, io sono a petto nudo, sono in spiaggia che sto appena finito una partita di calcio, quindi mi sto rilassando un attimo. Ah, però, hai sentito Luca? Ho sentito sì, ho visto anche un suo tweet, quindi non gli dico niente perché sennò lo infamo. Tu infamalo, che problema c'è? No, però la giro anche a Pozzato, insomma. Ieri ho detto, normale che a Firenze vinca Rui Costa. Ah sì, normale, no, l'ho capito adesso io. Ah, l'hai capito? Insomma. Sì. Se lo sapevo prima te la facevo spiegare da Pippo. No, se c'era un corridore che si chiamava Battistuta, se c'era uno che si chiamava Battistuta o Antonioni, c'era una certa battaglia, ma Rui Costa non può che vincere a Firenze, cioè, è normale. Hai ragione. È ancora stanco da domenica, Luca. Sì, è ancora stanco da domenica. Senti, Luca, ma non ho capito bene, ma tu appendi la bici al chiodo adesso o appendi solo la bici azzurra? Che programmi hai? No, io ho un contratto ancora biennale con Katiuscia e ho voluto solo dare l'addio alla nazionale perché pensavo fosse il momento giusto. Comunque il teatro di Firenze era... Bello, il posto ideale con la gente nostra, quindi niente, sognando un grande mondiale a Firenze pensavo che era l'occasione giusta per dire addio dopo 10 mondiali in maglia azzurra. Senti, ma Luca, se chiedo a Pozzato, se dico a Pozzato che non ha fatto un grande mondiale, secondo te si arrabbia? Ma no, non perché so, prova. sbagliato. Prova che voglio sentire la risposta. Grande Pippo. Senti Pippo, non hai fatto un grande mondiale, posso dirlo? Sì, è vero, tanto l'hanno detto tutti. Quindi io anche se vinco è normale, dovevo vincere 10 anni prima. Se non vinco sono criticato, quindi è normale, io non me la prendo più, quindi va bene così. No, ma anche detto dimmi. No, penso sia stato sicuramente un mondiale difficile. Alla fine come squadra abbiamo corso veramente bene. Io ti dico la verità, pensavo venisse un po' meno dura. Nel finale ho mollato un attimo sull'ultima salita, ma guardando la prestazione non sono andato male. Chissà che risultato, che i primi quattro non ci sarei mai stato, quindi per me quel discorso è abbastanza relativo. I primi quattro sono quattro uomini da grandi giri, quindi per noi era improponibile star davanti. Con Cancellara dovevo esserci invece su dietro, questo sicuramente. Paolini come ha corso invece? Ma Luca, se parliamo seriamente, Luca sappiamo tutti quanti che è il nostro regista nazionale, ma è sicuramente quello che vede la corsa meglio di tutti. Quello che è venuto fuori, grosso merito, è anche suo, lui lo sa benissimo, e penso che se c'è stato un mondiale spettacolare, oltre al fatto che Bettini è stato bravissimo a metterci insieme, a costruire questo gruppo meraviglioso, questo spirito di squadra eccezionale. C'è anche un pizzico di Luca che si farà sicuramente sentire nei prossimi anni, perché come interpreta la corsa Luca è veramente qualcosa di eccezionale. Non lo dico perché è un amico, ma di solito gli vado sempre contro, ma se parliamo seriamente devo essere serio, obiettivo. Grosso merito di domenica è anche suo sicuramente. Sì, Luca dice così perché tu smetti con l'azzurro, eh? Sì, vuole già il posto assicurato lui, vuole che gli tiro la volata. No, io invece, per chiudere, ragazzi, Luca Paolini, io ti ho visto non male in alcune foto sulle moto. Sì, ho una gran voglia sinceramente di inforcare una moto e andare sul circuito, veramente. Andiamo insieme? No, perché... Ma vieni, io ho un appuntamento a Valencia 10 novembre. Benissimo, accetto. Portiamo anche Pozzato. Va benissimo. Ma chi vince il mondiale, Luca? Si dimentica una cosa, lui. Cosa? Chi vince il mondiale del moto mondiale? Il 10 novembre siamo a Miami per la Gran Fondo, non possiamo far Valencia. Siete a Miami per la Gran Fondo? Ah già, è vero. Ostia. Ora mi metto il luto al braccio. Adesso faccio spostare la corsa, ultima della stagione, magari ce la facciamo e proviamo la M1 insieme. Comunque penso che per il moto mondiale sia già scritto anche il vincitore, no? Che è il ragazzino. Che è il ragazzino malefico lì, sì. Spagnolo anche lui, quindi... Dannati spagnoli, non vedo l'ora di batterli in qualche sport. Comunque hanno una cosa in comune, che si corrono sempre contro, perché vedo anche Marquez, Pedrosa e Lorenzo, non è che tra loro corra Pedrosa è nato per perdere, io posso dirlo, tu no, ma Pedrosa è nato per perdere. Lorenzo è un pilota che a me fa impazzire e sta soffrendo come una bestia per il ragazzino, e il ragazzino è un fenomeno assoluto. Il ragazzino è un fenomeno, sì, concordo. Grazie Luca! Grazie a voi della chiamata. Pippo Pozzato, cosa diciamo a Balotelli invece? Che è un giocatore di calcio quasi come te. magari, non sarei stato a Firenze a fare il mondiale domenica, si giocava a calcio come lui. No, ma cosa ne pensi di questi atteggiamenti, di queste cose, di queste critiche così dure da parte del Milan? Ma sai, sicuramente come giocatore non si discute, è chiaro che fuori dal campo... è un personaggio particolare, ecco. Non spetta a me giudicare gli altri. Neanche a me, fidati. Pippo, possiamo ritwittare la tua foto che fai la rabona mentre giochi a beach soccer? Già fatto, messie. Benissimo. Un abbraccio Pippo, grazie. Complimenti. Un abbraccio a voi, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao Luca. Straordinari, ciao. Luca Paolini e Pippo Pozzato. Fer du Nord, Paris-Roubaix. Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Chris Froome, la maglia gialla. da trionfatore ai 1912 metri del Mont Ventoux sul gigante della Provenza, il mostro per il suo rendimento, eccolo qua, questo ragazzo nato in Kenya, britannico, che va a vincere sulla Mont Ventoux, oggi veramente da padrone, e oggi soprattutto, Davide, possiamo dire che ha letteralmente impressionato Chris Froome. Adesso, alto momento di contaminazione radiofonica con una delle più note voci del calcio italiano, Pierluigi Pardo, che intervisterà il principe dei commentatori del ciclismo, Davide Cassani. Ciao! Ciao! Sì, fra l'altro io non ne so nulla, quindi possiamo parlare. Allora, la bicicletta si compone di due ruote, no? E quindi siamo a questi livelli qui. No, a parte le battute, come sarà questo tour? Ma penso che sia bello, perché il percorso è particolare, nel senso che non ci sono tanti chilometri a cronometro, da anni non c'erano così pochi chilometri, solamente una a cronometro nel finale di 54 chilometri. Ci saranno diverse rive in salita, ci saranno i Vosgi e naturalmente Alpi e Pirenei. Davide, oggi invece, tra l'altro, si ricorda l'anniversario della scomparsa di Octave Lapiz, che Pardo naturalmente non sa chi è, però avrebbe compiuto 129 anni. È il famoso corridore, un idolo del ciclismo francese anteguerra, il più forte di tutti, vinse il Tour del 1910, un tour durissimo come questo, e in cima all'Aubisque, dopo aver scalato per il Sorda Spene Tourmalet, disse agli organizzatori: voi siete degli assassini. Questa è una delle pagine letterarie del anche ciclismo. Perché tu immagina, nel 1910, con quelle biciclette, sì, con quelle strade, affrontare il Tourmalet, l'Aubisque, la Spene e il Peresurda, tappe, sì, di 350 chilometri, sarebbero dure adesso, pensa, 100 euro di anni fa. E allora, voi siete degli assassini, quell'urlo, e poi vinse ovviamente il Tour de France. Mi spieghi la differenza, proprio a un profano, al di là del prestigio, cioè la differenza fra il Tour e il Giro, tecnicamente parlando, cioè sono due corse a tappe, il Tour, se non sbaglio, è un pochino più lungo? No, è uguale. È uguale, vedi che so tutto, perfetto. Andiamo avanti. L'importanza della corsa, il Tour è la corsa più importante al mondo, ci sono corridori che si preparano una stagione non solo per essere in forma nel mese di luglio, perché vincere una tappa ti dà la possibilità di diventare famoso, non parliamo poi di chi vince il Tour, perché, sì, ti cambia la vita. Ed è proprio questo. E tecnicamente, come tipo di corsa? Ma sai, tecnicamente, sinceramente, mi piace un più percorso del Giro d'Italia, perché in Francia, vabbè, quest'anno hanno inserito i Vosgi, non faranno Massiccio Centrale, ma c'è tanta pianura, poi ci sono le Alpi e Pirenei. Nei percorsi del Giro d'Italia invece c'è la possibilità, grazie agli Appennini, di inserire tutte quelle volte che vuoi, montagne, salite difficili più o meno, e quindi i percorsi sono più belli, più affascinanti, più vari. Il Giro di Francia, soprattutto nelle ultime edizioni, soprattutto nella prima settimana, c'è un po' di monotonia. Sì, certo, Davide, però la grande differenza sta nelle tappe, che sono apparentemente monotone, perché adesso ci sono tutte queste salite storiche, Tour de France molto duro, e si fa presto a dire Nibali, però sai benissimo come la grande difficoltà del Tour è combattere a 53 all'ora di media quelle tappe che sembrano di trasferimento, in cui si scannano per vincere. Quindi la grande difficoltà sta nella tensione quotidiana che il Tour de France ti costringe a subire, e tensione che ti mangia. Quindi sì, perché nella prima settimana le salite contano poi relativamente. Sì, perché nella prima settimana ci sono quasi 200 corridori, tutti vogliono stare nelle prime 20 posizioni. Quest'anno, tra l'altro, nella seconda tappa ci saranno già 9 salite corte, ma molto molto impegnative, in Gran Bretagna, strade strette, quindi il rischio caduta è dietro ad ogni curva. E soprattutto è ritornato il pavé, perché nella quinta tappa i corridori dovranno affrontare 9 settori di pavé per un totale di 16 chilometri, ma il pavé è quello vero, quello dal Roubaix, quindi Carrefour de l'Arve, Mont-Saint-Pével, che spacca la schiena, immagino, no? E le ruote. E non solo. E le ruote, sì. Davide, ti ringrazio. Di cosa? Niente. Per essere stato con noi. Ragazzi, scendiamo, oggi giorno di Santo Stefano, torniamo domani con un'altra puntata di Tutti Convocati, dunque non partite, o se partite portatevi la radio. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ciao a tutti.